ride Deborah Rosciani, che entusiasmo ride. Guarda che venerdì è domani, non è che c'è da ridere ancora. Ride. Ripiove ed è ancora giovedì, quindi c'è poco da essere entusiasti. E il Milan ha perso. Volevo, non me la bruciare. Vabbè, così volevo così darti l'opportunità di parlare di tre perché argomenti. Questa mattina possiamo parlare a soldi e dintorni, o della tua casa di proprietà in Costa Azzurra che non hai mai denunciato, sì, al fisco, certo, o del tuo monolocale a Notting Hill a Londra, sì, oppure volevo anche proporti non così denunciato al fisco, giusto, ovviamente, oppure volevo parlare di Milan, ma vedo che già ti sei. Vabbè, tre così argomenti. Alzato ridi, le braccia. Ridi, perché la Juve gioca stasera. Sì, sì, stasera sentirai, non vorrei tirarcela addosso, ma la legnata fermati, è preannunciata. Fermati. Vado a parlare del fisco italiano. Questa settimana davvero abbiamo fatto da cassa di risonanza a tutte le comunicazioni che ha fatto l'Agenzia delle Entrate. Quindi rendiamo indigesta l'apertura della giornata a tutte le famiglie che ci ascoltano. Speriamo di no, però anche il tema che vi proponiamo oggi ci è sembrato piuttosto interessante, perché lo sapete, anche con lo scudo fiscale il fisco italiano è andato a caccia di ville e loft all'estero. In particolare c'è un'ultima iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, per l'appunto, che è stata resa nota ieri, e l'agenzia sta recapitando 6.000 lettere a contribuenti italiani che possiedono immobili non dichiarati in un determinato anno, in particolar modo in Costa Azzurra e in Gran Bretagna. Allora, sembra proprio questa iniziativa ci ha fatto un po' cogliere la palla al balzo per parlare di un tema un po' più ampio, perché sembra proprio che quando si acquista un'abitazione all'estero per villeggiatura o anche per altre finalità, i contribuenti italiani facciano fatica a rispettare tutti gli adempimenti della legge italiana. Magari lo si fa in totale buona fede, lo so che molti di voi non ci crederanno, ma eppure spesso e volentieri è così, però siccome non sempre il fisco ne è convinto, allora noi questa mattina vogliamo anche un po' ricordare tutti i passaggi che è necessario fare per essere in regola. Ci aiuta a capirne qualcosa di più il dottor Giampiero Guarnerio, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Dottor Guarnerio, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a tutti voi. Allora, intanto vorrei chiarire a chi arriveranno queste 6.000 lettere, dicevamo, inviate dall'Agenzia delle Entrate a contribuenti italiani. Stiamo parlando di quei contribuenti che risultano nel 2005 in possesso di immobili in Francia, in particolare nel Dipartimento delle Alpi Marittime, nel quale rientra anche la Costa Azzurra, e a coloro che risultavano proprietari di immobili in Gran Bretagna nel 2008. Quindi due anni ben precisi, dottor Guarnerio, ma ci sono molti italiani negli ultimi anni che, per esempio, si sono comprati casa anche in Spagna, hanno comprato la casa della villeggiatura in Croazia. Perché proprio queste posizioni sono oggetto di questa, chiamiamola così, indagine, di questo monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate? Ma penso ci siano due ragioni. La prima ragione è evidentemente che le autorità fiscali hanno ottenuto la collaborazione delle autorità di questi due paesi e hanno ricevuto le informazioni di soggetti residenti in Italia che possiedono immobili in quei paesi, quindi una ragione, diciamo, piuttosto pratica. L'altra ragione è che in questi due paesi, cioè, o meglio, gli immobili acquistati in questi due paesi non erano sistematicamente soggetti ad essere dichiarati in Italia se non quando fossero stati locati. Per cui non tutti questi immobili andavano dichiarati nel passato. La norma è cambiata. Da quest'anno sarà necessario dichiararli in ogni caso, ma prima non era così, e quindi vuole anche essere un sollecito bonario, un ricordo, un memorandum per coloro che hanno acquistato questi immobili per uso abitazione propria, non erano soggetti in dichiarazione in passato, da quest'anno lo sono e lo si ricorda. Quindi anche se la casa è banalmente solo tenuta a disposizione, non la si vuole vendere ma non la si vuole neanche dare in affitto, quindi non produce nessun tipo di entrata, diciamo, per il contribuente, in ogni caso da quest'anno la si dovrà in ogni caso denunciare. Prima non era necessario se l'immobile era solo a disposizione, quindi non produceva nessun reddito. Allora, gli obiettivi di questa azione dell'Agenzia delle Entrate, lo recita anche il comunicato che ieri è stato diffuso, informare sui nuovi obblighi dichiarativi, li abbiamo anche detti parzialmente, legati al possesso di immobili all'estero a partire dall'anno d'imposta 2009. Dicevamo prima, dottor Guarnerio, molto spesso queste posizioni sono irregolari, ma davvero in totale buona fede. A noi è capitato spesso, affrontando il tema dello scudo fiscale, che ci chiamassero delle famiglie che, per esempio, hanno acquistato immobili in Gran Bretagna perché volevano acquistare una casa per il figlio che è andato là per ragioni di studio, e quindi piuttosto che svenarsi con degli affitti improbabili, chiaramente era forse meglio fare l'investimento nell'immobile. Ci si crede quando un cliente, un contribuente viene da un commercialista e gli si spiega questa situazione? Si crede sempre alla buona fede? È facile dimostrarla? Non è questione di buona fede, ma di regole. La buona fede purtroppo serve a poco. Il fatto di non aver pagato un'imposta non può essere giustificato dalla buona fede. Diciamo che la buona fede porta facilmente all'errore. L'errore più frequente, che è l'obiezione che mi sento sempre rivolgere dai clienti, è che mi si dice: ma io le tasse le ho già pagate là, perché le devo pagare anche qua? Perché esiste il principio di tassazione su base mondiale, tale per cui chi risiede in Italia deve pagare in Italia le imposte sui redditi ovunque prodotti, anche quelli che derivano da redditi immobiliari, salvo poi recuperare in Italia l'imposta pagata nell'altro paese. Ecco, lei mi raccontava, lo sveliamo anche ai nostri ascoltatori, prima di partire con la trasmissione ci siamo già sentiti, mi raccontava anche della posizione in cui si trovano magari molti stranieri che vengono in Italia, che lo stesso hanno delle proprietà fuori e dicono: io già sono in regola con il mio vecchio paese e non capisco perché mi devo sistemare anche con il fisco italiano. Esatto, soprattutto per chi viene in Italia e assume la residenza in Italia, a questo punto è equiparato sotto profilo fiscale a chi è nato qui e è cittadino italiano, e si troverà facilmente nella situazione di avere degli immobili, la sua casa dove ha sempre vissuto, piuttosto che il conto corrente nel proprio paese, e non pensa che è obbligato di indicare nella dichiarazione dei redditi questi possedimenti. Ritorniamo, dottor Guarnerio, a tracciare il percorso di queste 6.000 lettere, che è il tema da cui siamo partiti a Soldi e Dintorni questa mattina. Se un contribuente interessato a questa nuova procedura di rilevazione, in sostanza, chiamiamola così, bonaria del fisco, gestinasse la lettera, che cosa rischia? Allora, se la cestina, perché non ha l'immobile, fa bene, ma se la cestina, avendo l'immobile, rischia sanzioni piuttosto pesanti, perché la sanzione che oggi è prevista per non aver indicato il possesso di immobili o attività finanziarie all'estero va dal 10 al 50% per ciascun anno. Poi, per l'effetto del cumulo giuridico, cioè la reiterazione della violazione, non è detto che si applichi veramente per tutti gli anni, però in teoria si parte da qui, quindi dal 10 al 50% su 5 anni diventa dal 50 al 250%, che vuol dire rinunciare e regalare la casa allo Stato. Insomma, anche se abbiamo la certezza di aver ormai regolarizzato la nostra posizione, è meglio comunque portarla dal commercialista la lettera e farci certificare che la nostra situazione è regolarizzata. Dottor Guarnerio, mi mancano pochi secondi di tempo, vogliamo dare un'ultima raccomandazione ai nostri ascoltatori: chi quest'anno fosse tentato, avesse anche l'opportunità economica di poterlo fare, di acquistare un immobile all'estero perché ritiene che sia un investimento da fare, le risorse per farle, come deve regolarizzarsi subito con il fisco, quali sono i passaggi da fare? Ma è molto semplice, deve indicare nella dichiarazione di redditi modello RV doppio il possesso di questo immobile. Se poi dovesse anche avere dei redditi da questo immobile, dovrà anche questi dichiararli e assoggettarli a tassazione. Quindi, insomma, sul modulo della dichiarazione dei redditi c'è un apposito spazio dove questa indicazione deve essere data, sia relativamente al possesso, quindi alla proprietà, dopodiché il discorso della generazione del reddito è un passaggio ulteriore. Io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, dottor Guarnerio, buona giornata. Grazie. A presto. Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Alessandro. Alle 12, Salva Danaio. Guarda, su un tema che ormai ci è arrivato anche fino a nausea, ma non ce lo scrolliamo più di dosso, i Tango Bond. Te li ricordi? L'offerta ha riaperto di nuovo, l'Argentina riapre un'offerta per tutti i vecchi creditori sparsi per il mondo. Bond. Ci sono 180 famiglie italiane in attesa di un ristoro. E allora, a domani Deborah, alle 12 invece Salva Danaio, stasera non su Rai 2, ma c'è Santoro in varie TV, radio, al Paladozza di Bologna. Lo vedrete? Banalmente, così, ditecelo. Alle 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. A 3 giorni dal voto, Berlusconi ribadisce di volere l'elezione diretta di capo dello Stato e del Premier, frena il presidente della Camera Fini, intanto Bossi dice la Lega sarà il primo partito al nord. Per la cronaca, il maresciallo dei carabinieri Nicola Testini è indagato per omicidio volontario di Gian Guerino Cafasso, il pusher del caso Marrazzo. Il maresciallo Testini avrebbe dato a Cafasso una partita di droga tagliata male per liberarsi di un testimone scomodo. Nuovo duro attacco al Papa viene dal New York Times. Secondo il quotidiano americano, Ratzinger, quando era cardinale, occultò insieme al cardinal Bertone un caso negli Stati Uniti che riguardava un prete accusato di avere molestato almeno 200 bambini sordi in una scuola del Wisconsin. Infine, per il calcio, turno infrasettimanale di campionato, vincono l'Inter 3-0 sul Livorno e la Roma 2-0 a Bologna, mentre perde il Milan 1-0 a Parma. I nerazzurri dunque sono in testa con Milan e Roma che inseguono a 4 punti e sabato c'è Roma-Inter. Dunque, alle 8:33 minuti, eccoci qui, parliamo di Santoro, di TV, di informazione, di politica oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Conosce Santoro? Santoro. Santoro molto fazioso, è uno che vogliamo chiudere una trasmissione per chiudere questa trasmissione di Santoro, che è un personaggio fazioso di parte, molto brutto fisicamente anche, e quindi la vogliamo chiudere. Può dare il suo contributo, può dire chiuda Santoro in russo, chiudete Santoro in russo, chiudete. Prikrozie Santoro, Prikrozie Santoro, e chiudete Ruotolo anche in russo. Prikrozie Ruotolo, grazie. Grazie, grazie. Prikrozie Santoro. Спасибо. Товарищ, компанию. Товарищ, спрячем вас, Антора. Кюдете, Антора. C'era la turista russa incrociata da Benigni che diceva no, tovarish no, invece era Benigni, era Roberto Benigni, lo spot l'ha fatto così, in questa intervista ci sarà anche lui, credo questa sera, non su Rai 2, ma in una serie di TV locali, radio, siti internet che manderanno in onda Michele Santoro. Questa è la nostra sfida alla Rai, dice Santoro, ed è solo l'inizio. Allora, noi vi chiediamo, lo guarderete su radio24.it, potete votare, così facciamo una specie di pre-audit, il 61% dice di sì. Per ora ne parliamo con due senatori, Alessio Butti del Popolo della Libertà, buongiorno. Buongiorno a voi. Sono entrambi tra l'altro della Commissione Vigilanza RAI, anche Francesco Pardi dell'Italia dei Valori, buongiorno senatore. Buongiorno. Pardi. Senatore Butti, ho scoperto che la vedrà anche lei. Sì, quasi obbligato. Guarderà il nemico, che fa? Guarda il nemico. No, sono ospite di una rete di emittenti locali che la mandano, e quindi si farà un po', sarà una trasmissione mista, si parlerà un po' di regionali, un po' di programmi, un po' si ascolterà il verbo Santoro. Il verbo Santoro. Senta, ma perché fa così scalpore per qualcuno? Ieri credo Libero diceva dovrebbero licenziarlo dalla RAI, un altro verrebbe licenziato. Perché fa scalpore questa iniziativa di Santoro, se a lei fa scalpore? Ma no, non mi stupisce più nulla ormai di Santoro, però credo che un dipendente, come tutti i dipendenti, quando va contro la propria azienda possa essere sanzionato. Qui peraltro, vede, non stiamo parlando di un dipendente qualsiasi, stiamo parlando di un conduttore che guadagna circa 700.000 euro all'anno, stiamo parlando di un direttore, quindi aumenta la sua responsabilità nei confronti dell'azienda che lo mantiene e nei confronti anche degli italiani, perché evidentemente in quei 700.000 euro buona parte... Siamo noi a pagarlo col canone, insomma, quindi credo che sia un po' questa la situazione scabrosa, senza poi dimenticare che è un conduttore RAI che, appunto, non accettando una decisione della propria azienda, mette insieme un network di siti internet, di emittenti locali, di piazze, eccetera, eccetera, per proporre una trasmissione alternativa che certamente sarà, come sempre, a senso unico, col torcicollo verso destra, con una critica costante sul centrodestra, su Berlusconi, cioè niente di nuovo, cambia solo lo strumento. Cambia lo strumento. Il senatore Pardi, immagino la guarderà anche lei, non so se o sarà a Bologna. Sì, io sono in giro per campagna elettorale, forse mi può capitare che dove arrivo a Siena stasera forse ci sarà la connessione. Senatore Butti dice non piace questo metodo di aggirare un divieto, cambia lo strumento. A me piace moltissimo. A lei piace? Mi piace moltissimo il fatto che si possa uscire dall'opacità insopportabile della RAI che nasconde le cose e che impedisce ai professionisti di lavorare, che si possa fare cose altrove, ma volevo accettare la logica di Butti, se si usa lo stesso criterio bisognerebbe subito sanzionare il direttore generale Masi, il quale si è dato da fare personalmente a dare suggerimenti specifici per chiudere una trasmissione RAI. E questo, diciamo, è molto peggio della faziosità di Santoro, perché Santoro, se è fazioso, è fazioso all'interno di un programma dialettico. Masi chiude i programmi. Lei però prende delle, cioè, si riferisce. Avrebbe sanzionato lo stesso, perché è un direttore di giornale che invece di dare le notizie ne nasconde. Ma in base a che cosa, senatore? Alle intercettazioni, uscite, stralci di intercettazioni contestate da chi dice non dovevano uscire? Beh, ma certo, poi sono. A me del rilievo penale non me ne importa nulla. Non voglio mettere i piedi nella questione giudiziaria. Io ho sentito, ho letto delle cose dove si sente il Presidente del Consiglio che dice ai membri dell'autorità di garanzia delle comunicazioni, dice: non ti stai guadagnando lo stipendio, ti abbiamo messo lì perché tu chiuda la trasmissione di Santoro, non l'hai ancora fatto. Masi prende il telefono, chiama degli altri e gli dà dei suggerimenti, chiama sempre Innocenzo e gli dà il suggerimento, dice: bisogna far scrivere una lettera a Calabrò che permetta di chiudere il programma di Santoro. Minzolini dirige il TG maggiore della televisione italiana, nasconde le notizie come quelle delle prostitute a casa di Berlusconi a Palazzo Grazioli e poi invece falsifica le altre. Loro sono molto più sanzionabili di Santoro. La sua posizione è molto chiara. Prima che il senatore Butti replichi, io voglio salutare, ci ha aggiunto il direttore di Rai News 24, Corrado di Nomineo. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. Perché lei, insomma, ha anche detto ieri in un intervento, credo sul Manifesto, dice: mi chiamano 20 volte al giorno i colleghi, noi siamo forse, i primi della giornata, visto che lei è stato in onda fino a poco fa, a dire che farò, se è giusto, perché lei vuole mandare in onda la trasmissione, insomma, la manifestazione di Santoro. Dice: noi, il nostro dovere è informare, siamo un telegiornale, e oggi alle 10 il direttore generale Masi della RAI riunirà l'ufficio legale per capire se lei può andare in onda o no. Come finirà? Ma innanzitutto mi permetta di dire una cosa umilmente a Pardi. Io lavoro come giornalista in RAI dal 1 febbraio 1978, 32 anni e un paio di mesi mi pare, e devo dire che in questi 32 anni sarò stato fortunato, ma una censura non l'ho mai subita, nessuno mi ha detto questo non lo puoi fare. Certe volte non mi sono state offerte alcune occasioni, spesso mi sono state offerte invece, e di questo ringrazio sempre la RAI, occasioni magnifiche di arricchimento, di esperienze professionali, ma insomma io censure non ne ho vissute. Quanto alla questione di Santoro, il ragionamento è molto semplice: noi diamo tutto. Noi diamo la manifestazione contro le mafie di Don Ciotti, quella per l'acqua, la manifestazione delle opposizioni a Piazza del Popolo, abbiamo dato e abbiamo avuto un successo straordinario che probabilmente non è merito nostro ma dell'interesse che quella manifestazione suscitava, la manifestazione di San Giovanni del Popolo della Libertà. E allora il punto per me è questa iniziativa di Santoro portata avanti dal sindacato dei giornalisti è notizia o non lo è? A me pare che lo sia e quindi non possiamo non illuminarla. Seconda questione, in campagna elettorale è opportuno dare la parola a Michele Santoro, sì o no? Perché c'è anche una questione di opportunità, lo capisco molto bene. Secondo me è doveroso, perché Santoro è un fenomeno, infatti tutti ne stiamo parlando, ne parlate, perché molto spesso il Presidente del Consiglio lo cita, ne parla, lo presenta addirittura come uno degli esempi di quell'odio che si contrappone al suo partito dell'amore, abbiamo visto cartelli contro di lui. Allora se in campagna elettorale per esempio ci sono, come ci sono, delle critiche ai magistrati ripetute, reiterate, che fa? Non si fa parlare dell'Associazione Nazionale Magistrati? Certo che la si fa parlare. Quindi da questo punto di vista io sono sereno. E poi anche questa storia del direttore generale. Guardate, io con il direttore generale l'ho incontrato ieri, parlavamo in realtà di RaiMed e non mi ha detto nulla. Naturalmente il direttore generale sente i legali perché deve proteggere l'azienda, ma io non penso proprio che ci possa essere da parte del direttore generale nient'altro che un suggerimento, e io naturalmente i suoi suggerimenti... Non si aspetta un divieto, cioè non crede che possa venire un divieto? No, non lo aspetto proprio, no. Vediamo, senatore Butti, lei che ne pensa? La scandalizzerebbe vedere questa sera su Rai News 24 Santoro, il programma, la manifestazione di Santoro? E se vuole replicare no, anche a Pardi? non mi scandalizzerebbe, però credo che il direttore, che saluto peraltro, abbia introdotto un paio di argomenti che siano stimolanti, insomma sono stimolanti. Lui dice di non essere mai stato censurato, evidentemente è stato molto più corretto di Santoro, questo è assai evidente. E voglio anche ribadire, visto che si è parlato di censura nell'intervento di Pardi, che la RAI non è che abbia chiuso tutti gli approfondimenti, perché ovviamente Report va in onda, altre trasmissioni vanno in onda, ha semplicemente limitato i danni che avrebbe potuto creare Santoro nell'ultimo mese di campagna elettorale, andando così, diciamo con un eufemismo, in deroga alla par condicio. Cioè, che mi ci sta dicendo che è una cosa contro Santoro? No, no, no, non sto, no, dicendo che ha limitato i danni di Santoro. Dico che Santoro, se vuole fare il cronista, il giornalista, il conduttore, il direttore del servizio pubblico, deve capire che non può essere così fazioso, deve capire che il servizio pubblico ha delle esigenze di obiettività, di oggettività, non solo perché c'è il canone, ma proprio perché è servizio pubblico. E quando Pardi parlava della opacità della RAI e quindi era felice di questa iniziativa, io non lo dico ironicamente, però penso, visto che Santoro ha messo insieme il network, Santoro ha lo sponsor, tra l'altro uno sponsor abbastanza scomodo che mi sembra sia al centro anche di qualche inchiesta, e qui non lo voglio ripetere, alle piazze, beh, insomma, ha i soldi, tragga le sue conclusioni, vuole fare il fazioso, cioè, lo se può ne fare, va, ma se non ne... lo può fare in RAI, cioè se ne vada dalla RAI, questo è... beh, potrebbe essere anche questo, insomma è una sua scelta, lui più volte l'ha detto che potrebbe anche andarsene, più volte, come sa, questa qui non è un'iniziativa nuovissima, già in passato sì, lui aveva utilizzato un network di emittenti locali per poter dire tutto quello che voleva, e oltretutto è talmente scomodo, mi scusi, che anche Lettera 22, che è un'associazione che tutto si può dire tranne che abbia in simpatia il centro-sinistra, e Fare Futuro, che è la fondazione di Fini, hanno in un certo qual modo o criticato l'iniziativa oppure si sono chiamati fuori, perché hanno capito dove si va a parare. Sarà un dialogo costruttivo, ma il solito senso unico di Santoro. Allora, anche se annunciato tra gli altri anche Emilio Fede, insieme a Luttazzi, insieme a Morgan, Monicelli, Gad Lerner, Gabanelli, Iacona, appunto Benigni nello spot che abbiamo sentito. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, vedrete o no Santoro, Rai per una notte, su varie TV locali, su internet, su Rai News 24 probabilmente, come ci ha confermato il direttore Corradino Mineo, ma oggi la Rai insomma valuterà. Due ascoltatori, Paolo da Palermo, buongiorno, che dice? Buongiorno a tutti, scusate la voce un po' legnosa, ma con questo cambio di temperature c'è questo. Anche a Palermo. Allora, noi ci occupiamo di Santoro, ci occupiamo di Morgan, ci occupiamo di tutte le cose insomma più visibili, perché sono quelle insomma che danno più visibilità. Poi invece non ci occupiamo, perché a me non interessa il fatto se Santoro sia fazioso, se vederlo o non vederlo, perché basta entrare in un bar di mattina e trovi chi ti fa per l'Inter e chi ti fa per la Juventus. Quello è un discorso, insomma, ecco. Io invece mi occuperei molto più con la stessa intensità, per capire dove sono andati a finire i soldi della truffa dell'influenza A, che non ho visto un morto. Vabbè, cioè che c'è? Si sta dicendo, stiamo parlando di cose che non contano. Parliamo anche di quello, però Paolo lei dice non sono questi i problemi, insomma, Santoro non Santoro. Va bene, voglio andare a Reggio Emilia da Roberto, buongiorno. Buongiorno, che dice, io vedrò Santoro, sì, sono uno di quelli che lo vedrà. Volevo solo fare una considerazione, nient'altro. Visto che il centrodestra si ritiene così forte, non vedo per quale motivo deve attaccare sempre una persona sola, in questo caso Santoro. Se si ritiene così forte, che lo lasci parlare. Che lo lasci parlare, va bene. Senatore Pardi, voglio fare mia la provocazione che oggi il Riformista mette in pagina, dire, ma guardate, Floris più o meno è comparso, la Gabanelli è andata in onda, Santoro non ha mai goduto di tanta copertura stampa, insomma stai a vedere che l'unico vittima di questa cosa è Bruno Vespa, che è scomparso da più o meno ovunque. Perché ride così? È un dato di fatto, senatore, cioè lei ha visto Bruno Vespa da qualche parte? No, rido, gongolo, diciamo. In fondo Bruno Vespa si prende un periodo di riposo, sta 3 giorni o 4, non lo so perché non lo vedo. in mezzo alla settimana c'è un periodo, comunque trovo la battuta divertente. Per il resto invece direi che è Berlusconi stesso che diciamo così mette in evidenza la cosa, perché se è lui che insiste a chiudere Santoro a tutti i costi, e già questa è un'anomalia totale, perché vedere un Presidente del Consiglio che invece di occuparsi della crisi economica si occupa soltanto di Santoro da chiudere e da far chiudere, questa cosa dimostra due o tre cose. Uno, che non è vero che la televisione non conta niente nelle elezioni se il Presidente del Consiglio si occupa così tanto di chiudere un programma. Due, che il metro per giudicare la faziosità o la non faziosità è veramente strambo ed è, diciamo così, imposto da chi ha la forza per imporlo, perché continuare a dire che Santoro è fazioso senza porsi il problema di tutti gli altri fa dimenticare, per esempio, che il TG di Minzolini è peggio che fazioso. Ah, perché c'ha un'ossessione lei per Minzolini, Nasconde le notizie, dico Minzolini a titolo d'esempio, diciamo, sì, telegiornale di regime, nasconde le notizie che sono, possono essere, diciamo, fastidiose per il Presidente del Consiglio, come il giro di prostitute a casa sua, e poi falsifica le altre. Ancora. E poi dedica metà del telegiornale all'intrattenimento. Vabbè, ma senatore, lei parli con Minzolini, insomma, bevetevi un caffè insieme, sì, magari. No, ma perché io l'ho incontrato nell'ascensore una volta, che si usciva dalla vigilanza, diciamo, così visto di persona può anche sembrare una persona normale, non è normale il suo TG, quindi poi c'è una diciamo così un'altra riflessione da fare, che vi siete detti qualcosa in quello, no. È stato il classico ascensore di due imbarazzati, no, e c'erano anche delle altre persone, no, abbiamo parlato, avete parlato, sì, ma no, la questione è che la polarizzazione poi sulla cosa di Santoro dà un peso enorme ad una sola questione, sì. E per esempio ci fa trascurare questa battuta grottesca che circola da circa una settimana, sempre di Berlusconi. Lui ha scoperto che ora pretende l'elezione diretta o del capo dello Stato o del Premier. Io non so se vi rendete conto dell'analfabetismo costituzionale che sta dietro questo modo di pensare, ma è chiaro perché. Perché lui pensa all'elezione diretta o del capo dello Stato o del Premier, perché pensa di essere sempre lui. A lui gli è indifferente essere o capo dello Stato o Premier, che sia eletto direttamente lui. Allora, io vorrei tornare dal direttore Mineo. Perché Mineo la chiamano in tanti? Lei ieri l'ha detto, a chiedere andrà in onda o no, c'è questo distorto rapporto mai risolto tra la politica e la RAI, tra la politica e l'informazione, tra la politica e la TV di fondo, insomma. Allora, era il 1975, quelli che sono meno giovani se ne ricordano, ed è arrivato in edicola un nuovo giornale che si chiamava Repubblica. Uno dei leitmotiv di Repubblica era bisognerebbe che il sistema televisivo fosse privatizzato, ed è cominciata la campagna contro la RAI della lottizzazione, poi siccome Repubblica aveva più simpatie di sinistra, la polemica era ancora più forte contro Rai 3 di Cursi e di Guglielmi, anche i comunisti accettano la lottizzazione. Poi è arrivata una sciagurata legge, che era la legge Mammì, che fissava un duopolio televisivo a parità, privato e pubblico, però assolutamente dispari, il privato poteva fare quello che voleva e il pubblico era responsabile di tutte le colpe. E poi si è continuato così con l'avvento anche del presidente Berlusconi, il quale, diciamo, legittimamente dal suo punto di vista crede molto di più, e non è il solo, perché D'Alema spesso ha fatto battute analoghe, nella sua capacità di comunicare, no? Piuttosto che nel fastidio di sottoporsi al controllo dell'informazione, alle interviste scomode, ed è nata un'altra polemica. Io dico, la RAI è tartassata sempre perché è ostaggio di questa transizione infinita del nostro paese. Cioè, la RAI ha delle colpe, io amo molto la mia azienda nonostante tutto, ha delle colpe e delle responsabilità, ma è spesso l'agnello sacrificale di questa transizione senza fine, non si riesce mai a vedere una fine, uno sbocco condiviso o non condiviso, anche parzialmente autoritario, ma che sia uno sbocco di questo, di questo processo che non finisce mai. Allora, davanti a tutto ciò, a me pare del tutto normale fare quello che farò stasera, E lo farò in difesa del servizio pubblico, cioè finiamola con la storia che il problema è la RAI. Che problema può dare una trasmissione non gradita al centrodestra? Pardi dice che ci sono interi telegiornali che non sono graditi al centrosinistra. E allora non è quello il punto, cioè smarchiamo la RAI dalla questione della incapacità della nostra società, ma anche della nostra politica, di dare uno sbocco condiviso a questa transizione infinita. Anche ecco perché... se, direttore, io devo chiudere, ma la danno oggi sul Corriere della Sera, e lei fa la rassegna stampa anche molto prima di me, quindi l'avrà visto, come il nuovo Ruffini, cioè il nuovo nel mirino dell'area PDL, lei. Pazienza, cioè pazienza. Voglio dire, anche su questo, abituiamoci, qui non è che nessuno viene mandato in un gulag, insomma se a un certo punto la RAI non gradisce più, non ha più fiducia nel direttore Mineo, è che non è successo nulla, insomma, Mineo farà un'altra cosa. Grazie a tutti, mi devo fermare, al direttore di Rai News 24 Corradino Mineo, ai senatori Alessio Butti del PDL e Francesco Pardi dell'Italia dei Valori. Ci fermiamo, radio24.it, vedrete Santoro, continuate a votare nel homepage bianco o nero. Ringrazio Sara Spreafico in redazione, Filippo Aureggi in regia. Ecco la linea a Oscar Giannino, pronto già, e noi ci troviamo domattina.